Torino. Eccomi qua. Ci sono già. Mi stavo sistemando il tavolino. E allora, oggi cosa mi racconti? Questa sera mi sono andato stamattina dalle 6, mi sono alzato per andare al campo, per farmi fare dei conti. Se ne parla sulla pensione, se ne parla nel 2020. E quindi adesso devo fare una scelta. Una scelta posso andare prima, però mi prendono un po' di soldi, quindi non ho mica un rientro, no, mi dico di no, mi ha detto di farti sapere qualcosa tra oggi e domani. Decidi bene, Gianni, attento, non ti fregare, fai bene i tuoi calcoli, perché dai, oggi come oggi, anche se possono essere per 100 euro di differenza, e perché devi perdere 100 euro mensili? Fai bene i tuoi calcoli, Gianni, e poi decidi tu come devi fare, come più ti conviene. No, perché la storia è questa. Capito, io lo so come funziona. E appunto fai bene i tuoi calcoli, fai un po' tu. Certo, rientrare devi. Insomma, solo con questo piede non riesci a risolvere il problema di una guarigione definitiva. Oh Madonna Santa, già ti è costata quella passeggiata col cane la volta. Oh, io. Speriamo bene, già cosa vuoi che ti dica, io ti auguro tutto il bene di questo mondo, per cui non so cosa dirti, guarda. Ma per quella materia, la scusa sarebbe magari fatto, continuiamo, mio cognato gli ha fatto la stessa cosa, però da una, come si chiama, un occhio di Santa Lucia, ce ne presenti, perché Santa Lucia che ti escono sul mio, anche uscito sotto il piede. Buonasera, no ti va futti, non ti fare fregare, a me per andare via 2 anni prima 5.000 me ne volevano dare. Io e famoso futti vecchi, ma tu lo sai cosa ti costa questa manovra per la denuncia dei redditi all'anno? Ah, lo sai cosa ti costa? 50% ti costa. Lascia perdere. Sì, claro. Ma io ho poca scelta, mi ho preso questa, oppure io ho finito la malattia, se mi capita il giorno di malattia mi butta una musica. Già, ma quando mai, porca miseria, non c'è un'altra soluzione? Non è conveniente, già. Mi hanno offerto anche a me una soluzione del genere. Senza il tuo caso, ok? E sano, senza niente, cioè per andarmene 2 anni prima, ok? Mi hanno offerto 5.000 euro di incentivo, perché andando via come dicevano loro, così, no, io facevo 2 anni in Aspi, Anaspi è un tot, è l'80%, e poi ogni mese va a calare del 3%, capito mi hai? Allora io ho consultato un consulente del lavoro con le controballe, scusando il termine, e mi ha detto invece lo scemo, intanto è tassata del 25%, quello che loro ti danno perché se devono scaricare, va bene, come le detrazioni che tu hai in busta paga. In più, siccome superi il reddito, a fine anno con la denuncia dei redditi devi fare la chiesa dei redditi, li do a dare, i paghi Gianni, le paghi. Lo so, però ho trovato già per tutti. Capito? Io ho finito la malattia, il 17 posso fare altri 10 chiodi, dopo il 17 poi ho finito. Quindi questi chiodi che mi rimangono non mi servono per farlo guarire il piede. Dovrei farne altri per farlo, diciamo, per farlo chiudere il tubo, devo fare la camera interbare, un sacco di roba. Se io vado con quel metodo lì, non posso dare nessun giorno di malattia di cosa, capito? Perché io ho finito di malattia, adesso se ne parla, siccome è una solare, devo farti la nascosta e devo continuare quest'anno, capito? E praticamente sono accumulato, non posso fare nulla. Io questa l'ho presa, non avevo fatto un mangiolo di malattia, sto cominciando adesso, ho fatto questi 15 giorni, però non posso fare più, sono stato troppo non su quello. E mi ha detto, fammi sapere perché. Ti capita un'influenza, una cosa, non prendere malattia perché sono felicizia. È meglio che farti licenziare, è meglio prendere questo. Questo malattia, c'ha ragione, ma parlato di questo. Gianni, te lo sto dicendo, non è che te lo dico perché ti voglio male, per carità, ciao giù. Ti voglio far capire che non è conveniente, perché la NASPI è un sussidio, è vero, ma siccome abbassa ogni mese del 3%, lo Stato ha fatto la legge e tolto l'inganno, come si dice, abbassa del 3%, va a finire tu che in questo periodo della tua convalescenza, del tuo riposo, perché ti è dovuto, vai a prendere una cazzata. Allora loro cosa dicono? L'hanno fatta a me. Sì, lei va via, va con la NASPI, noi le diamo un incentivo per raggiungere lo stipendio. Perfetto. Ok, ho detto. Vediamo, mi informo se è conveniente. Mi sono informato, ma non è per essere scemo. Ma assolutamente. È un inganno che l'azienda ti sta facendo. È un inganno, capito? Perché loro ci guadagnano, perché si scaricano tutto. In più è tassato il 25%. Poi cosa succede? Quando fai luce ai redditi, purtroppo, questo incentivo che loro ti danno, lo devi dichiarare. Perché lo devi dichiarare? E ti viene tassato anche lì. Quello che ti hanno dato, tu lo devi restituire. Allora alla fine che cosa hai fatto? Non hai fatto nulla. Sono 2 anni di NASPI, Gianni. Sono pochi soldi, sono 1.000 euro. Alla fine del tuo percorso vai a prendere 700-800 euro. Cioè, quindi non è conveniente, poi già. Se non ci sono altre soluzioni, vedi tu. È chiaro che io non ti posso fare i conti in tasca, però a me non è convenuto. Non è convenuto, quindi io trovando la soluzione ai conteggi, avevo i 2 anni lavoratore precoce e gliel'ho messa dietro, capito? Sono andato col massimo della contributiva. Il problema è che tu non c'hai, non ci arrivi neanche trovando una soluzione di quel genere, perché io ci avevo già 39-10 mesi, quasi 40 anni fatti di lavoro, quindi con i 2 anni di lavoratore precoce sono uscito pulito, capito? Però ho fatti bene i conti già, perché sono soluzioni per chi ha tanti quattrini e dice sì, ma me ne vado, già me ne affutti, ho 50.000 euro da parte. Campo con quelli sino ad andare alla pensione, ma uno che non ha non funziona così, capito? Vai Giulio. Ok, ciao qua. Sì, ma io dico questo, Gianni, tu sei andato al CAP, sei andato, no, ci hanno fatto loro questo punteggio, ma io direi di andare invece dal sindacato, non dal CAP, andare alla CISL o alla UIL, e te li fai fare da loro e ti fai spiegare per benino come stanno le cose, magari ti chiederanno di fare la tessera per spiegarti tutto questo, però ti conviene farlo, perché al CAP non lo so quanto possono essere preparati o Gianni, e tu fai fai tutto il tuo discorso per filo e per segno, come è andata la questione e la condizione in cui sei, e poi loro ti diranno ti devi comportare così, così e così. E io suppongo che l'unica cosa da fare al momento sia questa, Gianni, fatti consigliare dal sindacato, non dalla CAF. Io sono iscritto alla CGIE, stamattina ero alla CAF e alla CGIE, e poi sono andato dal sindacato, quello che ci aveva detto. E tutto il sindacato che mi hanno detto questa cosa, infatti lì al CAF ancora non ho fatto fare tutti i conti, e mi ha detto che non era tutto il che dovevo andare lì, e sono andato in realtà dove c'era la CGIE. Lira, va bene? Quindi questi 4.000 euro che loro ti danno per 2 anni di NASPI sono una stronzata. Tu devi cercare di farti dare il massimo per potertene andare. Dici, ok, io me ne vado via, va bene, mi faccio 2 anni di NASPI, voi mi mettete sul piatto per questi 2 anni di NASPI 10.000 euro. Ok, io domani do le dimissioni e sto andando via. E tu con la NASPI vieni accompagnato sino al giorno della pensione. Sì, quello sì, dipende da quanto ti offre la vita. Conviene solo se la vita ti offre una cifra ragionevole, se no conviene, io ho già faticato, ho detto preferisco trovare con quelli aperti piuttosto che andare di sotto. Invece ci sono le cose da pagare, la luce, acqua, questo e quell'altro, cioè devi avere anche i soldi per pagare la cosa, non è che vivo così, no? Ci sono le mie spese fisse. Infatti per quello te lo sto dicendo, perché non si può, a meno che l'azienda non ti accorni con l'azienda e dici perfetto, siccome io, per carità, può darsi anche che vi stia creando dei problemi, perché lavoro 3 mesi e 3 mesi sono a casa perché ho questo problema, non sono in più salute come ero prima, non posso fare più determinate cose come vi facevo prima, cioè non vi posso dare il 100%, ma ne sto dando l'80, il 70, il 50, quindi è chiaro che può darsi vi stia creando problemi. Allora, per non creare problemi io vado via, lascio il posto ad un'altra persona, voi a me, siccome la NASPI, ma glielo puoi dire tranquillamente perché loro non sono stupidi, ma non penso che non sono matti, a me la NASPI mi dà 800 euro al mese netto, ok, perché la partenza è di 1000 euro, meno il 3% mensile, io vado a prendere 800 euro al mese. Per questi due anni, siccome io devo campare dignitosamente come ho sempre campato, voi a me mi date 10.000 euro e io con questi 10.000 euro mi gestisco i 2 anni della NASPI, cioè mi accompagno al mio stipendio reale. Devi barattare già, non nulla, se te ne vuoi andare devi barattare, capito? Devi barattare, perché se tu non baratti dirizzimi, questo noi le diamo, arrivederci, buon viaggio, no? Allora io vengo a lavorare e vi faccio quello che vi posso fare, però, capito? Perché stai attento, un mio collega, che è successa la stessa cosa, purtroppo aveva un problema più grave del tuo, ogni volta che succedeva questa cosa erano mille problemi. Allora lui cosa fa? Si è rotto le scatole perché praticamente nella stessa tua situazione non poteva più andare in malattia perché sennò lo licenziavano, no? Già ho già fatto, a Reggio di notte ha chiamato l'ambulanza, si è fatto ricoverare, è rimasto 6 mesi in malattia col ricovero dell'ospedale. Ebbene, non lo posso licenziare lo stesso, io so di un amico mio che il padre ha avuto un incidente, un frontale tra l'altro, è stato più di 6 mesi e mi pare 3 giorni o 4 giorni l'hanno licenziato. No già, scusa Giulio, no già, il medico di base è il medico di base, se io mi sento male di notte, chiamo l'ambulanza e mi ricoverei Gianni, non c'è scritto, perché l'ospedale è ospedale, se l'ospedale dichiara che tu non sei idoneo a uscire da lì e che devi rimanere lì, no, hanno poco da attaccarsi, il medico di base è un medico di base, perché oggi i medici che abbiamo, parliamo per assurdo, sono tutti amici, no? Io quando dovevo andare in malattia adesso me ne frega più niente, lo chiamavo, dottore io mi sento male. E cosa c'hai? Male mi sento, sono tutto dolori, mi fischiano le orecchie, mi fa male la testa, mi gira. Va bene, dai, fatti una decina di giorni a casa. Te lo faccio direttamente online, passa a prendere la ricevuta, hai capito? A questi livelli. Quando tu chiami l'ambulanza e lì io posso appoggiare il piede, guardate come c'è il piede, mi sento male, mi giro tra le teste, ti muovi in ambulanza, ti porta il piede, ti ricoverai già né della biliare nel QSO. Sì, ma ti poi dal dottore, la mia dottoressa se tu vuoi fare certificato di malattia ti vuole vedere, se non ci senti fisicamente non ti fa certificare. A me per dire mi ha visitato il piede con la fila, mi ha fatto chiudere il ventaglio, mi hanno guardato con la fila in due perché c'era anche uno che stava, un dottore di quelli non vedi che stava imparando, hanno guardato la profondità della ferita e hanno visto che era molto profonda. Infatti me, secondo me non si spaventi, però se prendono un'infezione alle ossa qua andiamo male, che ci c'era molto profonda la ferita. Adesso che si sta un po' dentro, messo le pomate, sto facendo la medicazione ogni giorno, il piano Sì, già, ma è l'effetto dell'ospedale, non è l'effetto del medico di base, ti ripeto. Una volta che loro fanno l'effetto medico e che tu sei in prognosi lì, in cura lì, loro non hanno da che attaccarsi, perché l'ospedale che comandano loro, il medico di base è un'altra cosa, è certo che fanno così. Ti vogliono vedere, vogliono capire, vogliono perché, perché il medico di base rischia tantissimo. Se io che ho ambulanza, mi sento male, mi porto il passo tramite il pronto soccorso, mi ricovereggiano, il medico di base a me non mi deve cercare, a me il ricovero me l'ha fatto l'ospedale, e il medico dell'ospedale, che sia un otorino, che sia un chirurgo, che sia chiunque sia, capito, un cardiologo, chiunque sia, che a me mi dichiara che io devo rimanere lì per 10 giorni perché devo fare in cura. No, a me del medico di base non me ne frega niente, poi chiaramente glielo faccio sapere, però chi comanda è quello lì. Vabbè, Anaspi comunque, Gianni, non conviene se tu non baratti, ok? Perché quello è il discorso, sono utenti loro mesi netti, però se a te ti danno una certa cifra per andartene, allora accetta, ma non 4.000 euro, 4.000 euro non ti coricano mai col pelo, capito? Vai Giulio. Certo che è una situazione un pochino critica, Certo, appunto, bisogna cercare di farsi consigliare bene, oppure continui ad andare a lavorare, Gianni, come ti stava dicendo Claudio, fai quello che puoi fare, non ci sali più sulla macchina, non scarichi più niente, quando ti puoi fare, poi anche se zuppi, ti hai pazienza, tanto zuppicare a casa, zuppicare lì, lì non fai niente, lo fai nello stesso momento e non ti possono licenziare, perché se ti licenziano è un altro discorso. Ma è possibile, ragazzi, adesso io so che tuo cognato lì, come datore di lavoro, non ti poteva dare un posto dove appunto non devi stare in piedi, ad esempio, o che so io, o il magazzino, vedere, oppure prendere le ordinazioni, senza che tu possa fare tutta questa fatica e affaticare il piede. Non è possibile, ragazzi, non lo so già, vedi un po'. Attento, perché se ti fregano sei fregato veramente, anche perché ancora sei giovane, dunque se ne hai di anni da sopportare ancora, ti prendi? Sì, mio cognato c'è una vita, non vedo più che pensione, non c'è più bisogno di un cognato, è tutta l'altra, sono tutte altre persone adesso, non ci sono più quelli vecchi che c'erano prima, sono tutti giovani adesso. Però sono abbastanza comprensivi, ti dico la verità. Più che altro la ragioniera mi ha avvisato lì, ma l'ha detto guarda che ti manca un 40 euro. Occhio, mi ha detto, perché se dopo ci licenziamo e non paghiamo più dopo 40 euro ci licenziamo. E vabbè, io infatti sicuramente ritornerò, poi dovrò chiedere un po' di permessi perché ho alcune visite da fare nel prossimo mese. Ci avrò 3 o 4 visite da fare nello stesso mese. Invece se fossi stato anche con me di malattia me l'avrei fatto tutto con la malattia e via. Ma vabbè, vediamo, ci penso perché si tratta della fine della mia vita, quindi devo stare molto molto attento. Mi ha detto Maria Teresa con la residenza mi ha detto già da oggi e domani devi decidere, perché se no qui dopo tardi e ci mancano 10 giorni. Pensaci bene, ma che bisogna fare la proposta alta, perché se no in effetti è così, bisogna fare una proposta di un tanto più grosso, ma secondo me non c'è una liquidità adesso, non penso che lo faccia. Guarda che è proprio Maria Teresa a me che mi ha messo in allarme, capito? Quindi stai attento ad un'altra cosa, ti dico, la Naspi va concordata con l'azienda, perché se ti dovessero licenziare senza giusta motivazione, Naspi non ne prendi tu, capito? Se ti licenziano con giusta causa, sei fuori, Naspi non i bigli, sei senza mancuncito, devi concordare e fatti licenziare con giusta motivazione. Allora, con quella lettera di licenziamento, ci è anche scritto, con giusta motivazione, perché ce l'ho io concordata, allora con quella tu puoi entrare in Naspi. Se ti dovessero licenziare per giusta causa, non entri manco in Naspi. Lo so, va bene, mi sa che cerco di tirare avanti una di una. Purtroppo soffrendo dopo di la gamba, perché non è possibile andare con un pugno di mosche dopo tanti anni di lavoro, e tanti anni lavorando, come dico io, con tanto sacrificio, con tanta dedizione, eccetera. Non si può andare dopo 37, 38 anni, Claudio, perché non avevano calcolato che io lavoravo anche alla Tilly, capito? Sono 38 anni, quindi adesso il prossimo anno, nel 2020, noi facciamo la domanda di pensione. Rientri con quota 100 tu, 62, 38, 62. Sì, ha detto che il prossimo anno si può fare. Quindi già, tira, a meno che, ti ripeto, ribadisco, non hai un concordato con loro dove io vado via domani, voi mi licenziate con giusta motivazione, a me mi date un incentivo per coprire 2 anni in ASPI di 10.000 euro, con quelli giusti, quando ne prendi 800, arrivare a 1.500, ogni mese tu prendi un tanto e vai a tirare avanti così, già, se no devi andare a lavorare. Non c'è niente da fare, se fossi stato lavoratore precoce con 52 settimane lavorate prima del 18° anno, tu domani mattina andavi al sindacato proprio a Maria Teresa e dicevi: io preparami la documentazione come lavoratore precoce, ti inseriscono i 2 anni perché sono 52 settimane, praticamente più di un anno, però loro ne hanno 2 e tu sei risultato già fuori. Bello che tranquillo, sereno, come ho fatto io, con una retribuzione anche abbastanza alta. Già, pensareci, bisogna ci pensiamo. Io ci ho pensato dall'oggi al domani, dal sabato che ero a riposo, ho lavorato la domenica, ho fatto tutta la domenica lavorativa pensando a cosa dovevo fare lunedì. Lunedì mi sono alzato col piede storto, me ne gioco andato. Sono decisioni, però devi essere preparato, documentato e tutta la documentazione davanti, perché se sbagli paghi, non è che ti vuoi licenziare e poi i documenti non corrispondono, no, non è così. Non è così, Gianni, capito? Ci vuole un bel concordato, una bella documentazione. Uno dice: ok, ci rabbili alloggi, tanto prendevo 1.800 euro di stipendio, ne prendo 1.500, vai in Olamara, per 300 euro ce li sto rimettendo in salute e mi rimango a casa, ma da 1.800 a 1.000, sai, la differenza è troppa, non si può fare una cosa del genere, vai giù. Beh, certo, quando si tratta di poco si può anche fare, ma se comincia a essere una cifra importante, allora no, non va più bene, ci mancherebbe altro. Non so cosa dici già, fate consigliare bene e vedi un po', decidi nel migliore dei modi, perché se no sei veramente fregato. Anche perché ancora quanti anni hai? 62 non ce li hai tu, Gianni? Io sono bello, 59. Caspita, sono tanti che te ne mancano, eh. E gira, anche dopo. No, perché stavo pensando, visto che hai 38 anni, potevi usufruire della quota 100, ma invece questo fatto della quota 100, magari fra 3 anni non ci sarà nemmeno più, e chi lo sa. Dunque, il discorso è un pochino difficile da decidere, questo sicuramente. Però, vedi un po' tu, Gianni, non so cosa dirti. È l'unica a rimanere, basta. Mamma fa col piede che ti brucia tutto il giorno, furia. Io penso che questo vuol dire stare in piedi con questo piede così. Mamma mia, stamattina mi sono andato a riuscire perché sono arrivato alle 7:01 lì e c'erano già 3 persone. E aprivo alle 8:30. Sono stato dalle 7 sino alle 8:30, sempre in piedi e non riuscivo a stare con questo piede che mi bruciava. Non sapevo dove si sono appoggiato su quel davanzale che c'è, non so se cosa lo sanno bene. E si tacca, adesso un po' appoggiato su quel davanzale e mi sono levato il piede perché non ce la facevo più a stare in piedi. Allora è nuda, i piedi sono il cuore. Sono il cuore e i piedi del lavoro, a parte il fisico, è il cuore, capito? È il cuore. La quota 100 parte adesso da marzo assieme a il reddito cittadinanza, l'ho sperimentato per 3 anni, Giulio, per 2019, tutto il 2020 e tutto il 2021. Ok? E vedono cosa praticamente succede. Dopodiché può darsi pure, come dici tu, che non si possa fare. È chiaro che per lo Stato, se c'è convenienza, potrebbe anche andare avanti perché è una buona soluzione. Capito? Però bisogna vedere. Per il momento è per 3 anni la quota 100, quindi Gianni ci dovrebbe rientrare. Abbiamo la stessa età con Gianni, abbiamo qualche mese di differenza o Giulio, però i miei 2 anni li ho recuperati come lavoratore precoce, capito? Andando via, però io c'avevo più contributi di Gianni, capito? Gianni su 38, anche facendo quota 100, sono 38, 39, 40, ti mancano sempre. Io ne avevo quasi 41, perché ne avevo quasi 41, quindi sono rientrato alla grande. Se no, per Gianni, anche facendo quel sistema lì, senza l'età non ci arriva neanche. Vabbè. Già, cosa ti posso dire? Bocca al lupo, cerca di tirare la matracca, avete divisi, però è una cosa vergognosa, questo è il mio problema, questa è la mia diagnosi, questa è la mia cartella clinica, è mai possibile che debbano sempre rompere le scatole? Io questo vi posso fare, non vi posso fare di più, non perché loro continuino, bum bum bum bum bum, non riesco a connettere veramente. Il problema è questo, ma è mai possibile che il lavoratore debba essere sempre il lavoratore penalizzato, anche in caso di infortuni, ma non è accettabile una cosa del genere, nella maniera più assoluta. Purtroppo la legge è quella e non ci puoi fare niente, devi soffrire e basta. Gianni, vai al lavoro, fai quello che puoi fare. Quando non ce la fai più ti metti da una parte, ti appoggi ad un banco, a uno scaffale e cerchi di andare avanti e soffrire per tutto questo tempo che ti manca ancora per poter prendere la pensione. È certo che la soluzione non c'è, per cui il discorso è sempre questo. Però è strano, ragazzi, che in tutto questo tempo i medici non siano riusciti a farti guarire questo piede. Adesso si è roba di 1 anno e mezzo così, con questo piede così infortunato, vero Gianni? 4 anni. Capito, sì. Praticamente esternamente sì, si era chiusa, però in realtà all'interno non era poi guarita come si deve guarire. Ma poi lo avete detto, oh yeah. Il povero purtroppo il lavoratore è così. Soffrire sempre, da quando nasce fino a quando finisce la vita. Devi sempre soffrire. È impensabile che una vita umana possa essere così sacrificata, ragazzi. Quando uno deve andare al lavoro per guadagnarsi il pane, per portare avanti la famiglia, e poi quando ti succede un incidente così devi soffrire, continuare a soffrire in maniera assurda proprio. Boh, cosa vuole dire già? Speriamo bene, avanti qua. Era, non voglio più il mio problema, la guida. Parliamo di altro. E vabbè, ma da fastidio Gianni, non è per cambiare discorso eccetera, anche questi sono discorsi da affrontare, perché in questo caso sei tu, posso esserci io, ci può essere chiunque, e dà sempre fastidio perché è la pura verità. Cioè, ma è possibile uno che ti ha dato il cuore, che è 30 anni con te, 35 anni con te, ho questo problema e non mi viene incontro? Ma è assurdo, non sono l'ultimo arrivato, capito? Quindi l'azienda deve cercare di capire che c'è un problema e va risolto, una mansione diversa, una cosa da potermi aiutare fino a quando veramente non sto meglio, perché non è che sei, ci sei due giorni lì, ci sia una vita, è una vita di sacrifici, capito? È quello che dà fastidio, è quello che dà fastidio. Perché io quando ho avuto il problema alla spalla, che chiaramente non riuscivo a fare più quello che ero, che stavo facendo, che seguivo le imprese, stavo molto nei cantieri, eccetera, il capo distretto praticamente gli ho detto: "Otto, questo è un problema per me, perché non ce la faccio più a sollevare pesi, anche a sollevare i tumuli stradali per poter fare i controlli, eccetera, non ce la faccio più, sento un bene molto pesante". "Ma non si preoccupi nel modo più assoluto, perché quando uno va deve essere anche ricambiato, certo ha girato rumori, non mi vuoi trattare come un pellegrino l'ultimo arrivato". E mi hanno subito dato immediatamente un'altra mansione, sono passato praticamente all'ufficio tecnico, così chiamato, e mi seguivo gli impianti senza fare grandi sforzi, avevo più da scrivere che da fare altro, capito? E questi non trovano una soluzione, cioè non c'è una posizione diversa per te da stare, boh, non lo so, è una cosa che mi dispiace veramente. Mio fratello, tu prendi mio fratello sai che è diabetico, cazzo, c'è mia moglie a voce parlando con il medico, che anche lei, perché sai che perché anche lei ha un problema all'occhio, c'è una visita molto importante proprio per l'adeguamento della pensione. E mio fratello, tu prendi mio fratello era prima a Porto Torres all'ACI, al consorzio, no? E praticamente guidava il trattore, facevano segnalazioni stradali, tagliavano erba, verniciavano, era le manutenzioni mio fratello. Quando si è aggravato, che il diabete purtroppo tu lo sai come funziona, in più ha avuto un brutto incidente perché l'hanno investito, l'hanno operato alla colonna vertebrale, mio fratello tutto va ridotto, capito, sotto l'occhio già praticamente a giumare arrivare cieco. È chiaro che quella mansione lì non la poteva più fare. Mio fratello è in ufficio a Sassari, a Corte Santa Maria, al centralino. Cioè, è mai possibile che un'azienda non riesca a trovare una soluzione? È una cosa assurda, veramente, da pensare e da vedere. Non lo so. No, adesso ti blocco io qua. L'azienda a me me l'ha cambiata la mansione. Io prima facevo l'autista, adesso sto al banco della pescheria. Vendo il pesce, sto agli scaffali, vendo merce, faccio questi lavori qua. Non ci vado più via a consegnare, capito? Quello me l'hanno cambiato, però non la vita, ma anche per me dico del lavoro. Perché il contiene così, ha detto che non potevo guidare. Dice, la macchina tua sì, ma quella dell'azienda no, perché se causa un problema è l'azienda che ci piace, quindi è meglio che tu lo guidi. Ah, ecco, per la sicurezza, benissimo, quindi una soluzione l'hanno già trovata. Adesso all'interno dell'azienda, se la tua mansione ancora ti crea problemi e fatica, che ne trovi un'altra soluzione. Cioè, vabbè, è a parlare con i muri già, non c'entra a fare, tanto comandano sempre loro. Io grazie a Dio, ti ripeto, quando sono stato in infortunio che poi sono rientrato e purtroppo avevo sempre paura che mi si staccassero con la spalla tirando e facendo, me l'hanno cambiata subito. Me l'hanno subito cambiata, ma una sistemazione adeguata, una sistemazione da responsabilità, una sistemazione bella dove io sono stato contentissimo. Infatti io con la mia azienda, guarda, anche stamattina mi sono sentito col responsabile distretto di Sassari, perché ogni tanto ci sentiamo per salutarmi, mi informa delle situazioni, a volte se ha bisogno di una cosa, perché ho fatto un sacco di corsi per tutti i sistemi di allarme, per i PLC e per le cose che ci sono in quel sistema lavorativo, a volte ci consultiamo anche, eppure è una persona molto più grande di me, è una persona molto più grande di me, cioè 2 anni più di me, però una persona laureata, una persona che però nel campo, come dice sempre Giulio, si fanno le ossa, io me le sono fatte, ho imparato tante cose, le ho sempre messe a disposizione degli altri e ogni tanto ci sentiamo anche per vedere, per sentire, per capire, però ti ripeto, la tua situazione è una situazione veramente molto, molto delicata, ora sta a te decidere cosa vuoi fare, perché io personalmente, siccome abbiamo la stessa età, non ti consiglio di mollare e andare via così per due citti. O loro ti danno un incentivo buono che a te ti soddisfi, allora domani io vado via. Altrimenti così già non andare via a chi è troppo basso. La Maspi è un incentivo di Stato molto basso. Io mi ricordo quando ero ragazzo, sono andato alla signora disoccupazione speciale, era praticamente quasi tutto quello che prendevo, capito? Quasi tutto quello che prendevo. Sono rimasto poco, sono rimasto 6 mesi da quando ero la prima volta che sono entrato dentro l'Eniche, e poi sono entrato con l'Officina Turettana, e da lì ho seguito il mio percorso dove sono andato in pensione. Allora, sto dicendo, era buona disoccupazione. Adesso è un incentivo proprio di merda, scusate il termine, è un incentivo alla fame. Vai Giulio. Oggi bisogna guardare, soprattutto oggi, che si sta con il costo della vita, come cara, come figurati se uno può perdere soldi così. È per quello appunto che bisogna fare una buona scelta, perché non si sa mai, ragazzi, anche perché i tempi sembra che non siano portati a un miglioramento. Siamo sempre in ribasso, ragazzi, tutte le volte che vado in negozio non vedi altro che aumenti. A me ricordo che prima facevo la spesa, per dire, anni addietro facevo la spesa con 35-40 euro e facevo la spesa per tutta la settimana. Adesso fai la spesa con 120 euro e non ti basta gira, perché anche durante la settimana ci manca sempre qualcosa, ti manca. Non è possibile. Purtroppo i costi sono saliti moltissimo e i guadagni sono rimasti tali, per cui non si può diciamo rinunciare ad una pensione decente o Gianni, per cui stai molto attento e vedi un po' qual è la soluzione migliore per te. Certo, è ovvio, questo è ovvio, tu hai diritto ad avere una pensione decente, perché non si può accettare dopo tantissimi anni di lavoro, che si è già considerato che tra l'altro hai quasi tutti i contributi necessari, per cui non riesco a capire per quale motivo a uno gli si deve dare una pensione che si abbassa rispetto a quella che realmente le tocca, solo perché magari non ha raggiunto gli anni all'anagrafe. Non è possibile veramente. Loro dopo tutto ti consideranno una persona in base alla contribuzione, no? E allora se io questa contribuzione l'ho già raggiunta, non vedo la ragione per quale motivo io non posso andare col massimo della pensione. Non riesco a capire. Dice, ma sei ancora giovane? Sì, ma sono giovane, ma se vado in pensione libero un posto di lavoro e dunque faccio più spazio agli altri. Invece no, purtroppo le leggi sono così fatte maledettamente male, per cui solo per loro sono buone le leggi, ma per i lavoratori non c'è niente da fare, è sempre stato così e sarà sempre peggio, perché non sappiamo come sta andando l'Italia, sempre di male in peggio. Avanti qua. Sì, Giulio, però attento che non è detto che se tu hai raggiunto la contributiva, ok, io non ce l'ho l'età, però ho raggiunto la contributiva, se tu raggiungi la contributiva di 42 anni e 6 mesi, puoi andare in pensione senza l'età, è chiaro che non puoi andare con 38 anni di contributi senza l'età, allora devi aspettare 65 anni. Capito, 67, non so quant'è, però se hai raggiunto i 42 e 10 mesi, 42 e 10 mesi puoi andare, sono andato io perché ho raggiunto quei contributi come lavoratore precoce, quindi puoi andare tranquillamente, non è così. Poi c'è un'altra cosa, avete controllato i vostri conti correnti, hanno tolto le 80 euro di Renzi, lo sapete, sì, per rientrare nel rimettere i soldi per contribuire al reddito cittadinanza. Sì, quello lo so. Sì, ma deve capire che, Claudio, che prima non c'era bisogno di 42 anni di contribuzione, bastavano 35, e gli anni addietro erano 35, per quale motivo? Dice, ma dice, l'età della vita dice, è aumentata. Ma insomma, questo non significa che io debba soffrire sempre sino alla morte. Il discorso è questo, cioè sono leggi usurai sono queste, fatti dallo Stato, fatti dal governo, ma le missioni che rivendono a tutti quelli che comandano. Non è possibile, prima passavano 35 anni e ci andavo in pensione, per cui non avevo la ragione per quale motivo mi portare a 41 anni. E meno male che hanno smontato questa legge Fornero, se no nemmeno i 38 più i 62 sarebbero serviti adesso, sino a questo momento. Adesso voi fate da questo, però dura 3 anni, fra 3 anni magari la riporteranno a 41, a 42 anni, a 43 anni, che lo sa. Insomma, devi lavorare fino alla fine, ecco com'è. Vai, Gianni. Allora, adesso ve la racconto una. Io ho un amico che ha avuto un grosso incidente stradale e ha la gamba tutta quanta piena di peli. Ci aveva un 80% di invalidità. Praticamente lui ha fatto l'aggravamento e è andato là, invece che dare di più, ne l'hanno abbassata, 65. Capito? E gli hanno detto che la stampa non è che regalava 65. Alla fine mi si è incazzato e mi ha detto, ma lei cos'è, amico della Bui? E lui mi ha detto, perché mi sta dicendo così? Perché la Bui mi sta pagando per abbassare le pensioni per non dare agli altri, ma fatta per la vergogna, poi se n'è andata. Ha avuto 25 operazioni, tutti di qua, è stato in coma. E questo piede di sicuro lui l'ha volentieri, lavorava per l'industriale, poi il medico del lavoro l'ha messo praticamente, ha scritto che non era idoneo al lavoro e lui ha fatto la domanda di pensione, di aggravamento e cose, invece di aumentarla l'hanno passata, capito? E già, ma perché le pensioni di invalidità sono poche, cioè come pensione è poca come retribuzione, hai capito? È per quello che a loro le conviene, ci vai, così noi ne togliamo uno a mezzo, ho capito di chi stai parlando, il collega Di Franco, però è così, capito? Anche mia moglie sta facendo l'aggravamento, però voi sapete che le diano 50 euro in più, però lo deve fare, perché l'ultima vista che ha fatto è un dichiarato provvedente, quindi a uno che non ci vede, perciò non, adesso c'è anche cosa, la patente sicuramente non ne erano più, però è un altro discorso, capito? Giulio, perché la quota 100 l'hanno praticamente, la stanno sperimentando per 3 anni? Perché pare che in questi 3 anni fanno la sperimentazione su quota 41, cosa vuol dire? Che tutti quelli che hanno i 41 anni lavorati contributivi, perché li vanno a spulciare tutto, devono essere contributivi al 100% i 41 anni, tu puoi andare senza l'età con 41 anni di lavoro effettuato, capito? Stanno facendo questi esperimenti per vedere se lo Stato riesce a incentivare ma allo stesso tempo a guadagnare, perché tu pensa che la quota 100 per chi vuole andare con 38-62 è praticamente tassata del 25%. Cosa vuol dire? Che loro ti tolgono il 25% dalla pensione che ti danno, perché con quel 25% loro ti portano da 38, 39, 40, 41 a 42, si coprono i 4 anni che ti stanno mandando via prima. Cosa pensi che te li stanno regalando? Ah beh, indubbiamente non te li stanno regalando, questo è un... Sì, però da fastidio mi sono fatto di sapere che loro si prendono una pensione altissima. Questi ministri, questi parlamentari che sono stati anche gli ex, e se più si prendono anche il vitalizio, è una cosa assurda. Io ho ascoltato molto in questo periodo la politica, Di Maio, Salvini eccetera. Di Maio ha detto che in Italia ci sono 25 persone che prendono 500.000 euro di pensione. Ma ti sembra giusto a te questo discorso? Sì, è vero, sono solo 25 persone in tutta l'Italia, ma intanto ci sono, ma cosa maledizione possono aver fatto? fatto questi per avere una pensione da 500.000 euro, oltre al fatto che poi ce ne sono quelli che ne prendono 90, 50, 60 e così via. Ma dico io questo, ma che cosa ha fatto questo? Che cosa ha pagato questo nei contributi per avere una pensione di 500.000 euro mensili? Mensili, non annuali, mensili, 25 persone. In Italia ci sono che prendono quella cifra. È assurdo, guarda. È assurdo, però c'è. Intanto saluto un carissimo amico che mi ha mandato un messaggio su WhatsApp che mi sta ascoltando, un abbraccio grande. Capisco che è così, però purtroppo, ripeto, fatta la legge è trovato l'inganno. E quali contributi ha versato? Solo perché sono stati ministri, sono stati deputati o hanno lavorato alla Camera del Senato, cioè, e quello è lo sbaglio dello Stato, quello è lo sbaglio dello Stato, spero che si trovi la soluzione anche per queste cose. Però ti ripeto, se si riesce ad andare con il contaccento, molta gente non aderisce, perché se tu pensi che un lavoratore che va in pensione con 38 anni di contributi e 62 anni di età, rientrando in quota 100, viene tassata la sua pensione del 25%, una pensione con 38 anni di contributi, che sia un operaio, sto parlando, un operaio, ma anche un dirigente, anche un dipendente dello Stato, che non pensare che hanno questi grandi stipendi, perché un impiegato statale prende 1.600-1.700 euro al mese, quando tu a uno le togli il 25% sulla pensione di 1.500 euro, le stai togliendo 250 euro quasi. Cioè, dico, io mi nando in pensione prima per aiutare a te, cioè tu mi stai prendendo i miei soldi che io mi ho lavorato per 38 anni, è vero anche però che da 38 a 42 la copertura ci deve essere, loro non sono stupidi, quindi c'è già un sistema di che sta praticamente già portando negatività a molta gente ad andare con quota 100, perché io non l'avrei mai fatta, se mi mancano due anni andare in pensione con la mia contributiva, con il mio lavoro, io non accetterei mai, nel modo più assoluto, perché vanno a togliermi il mio lavoro già fatto, già la mia quota già stabilita pensionistica, capito? Quindi non è che sia un discorso fattibile, però nel caso di Gianni devi dire la matracca già, devi andare. Io sono convinto che non ti buttano fuori, perché siamo in fama ai piedi, ma poi già lo scaffale, faccia il mio responsabile, mi dice cosa c'è, non riesco a camminare, non ce la faccio appoggiare il piede, non lo so. Chiamate l'ambulanza e portatemi all'ospedale, cosa pensi che ti disinfieggeri? Un licenziamento non è facile farlo, perché è vero sì che hanno fatto anche la legge che posso licenziare per scarso rendimento sul lavoro, e questo benedetto articolo 18 che avevano fatto, ma è vero anche che se io non ce la faccio a camminare e a sviluppare il mio lavoro di 8 ore e te ne sviluppo 4, purtroppo è così, punto e basta. Sì, purtroppo è così, solo che le aziende maledette guardano anche loro, guardano i loro interessi, non gli frega niente poi il lavoratore, perché per loro un lavoratore vale l'altro, per cui non ci pensano queste cose qua. O meglio, lo sanno benissimo, lo sanno qual è la difficoltà del lavoratore, però non ti vengono incontro, ecco qual è il problema, perché sono degli usurai anche loro, perché l'azienda non vede altro che i loro guadagni e basta. Non è che pensa questo qui a me mi ha fatto guadagnare per una vita intera. No, non gliene frega niente. Quando te ne vai, lui ti sostituisce. Il discorso è questo, adesso se tu gli chiedi questo anticipo come stavamo parlando poc'anzi, è vero, il lavoratore avrebbe diritto di questa integrazione per poter raggiungere poi l'età pensionabile, è vero, certo. Però l'azienda ti dice, ma io ti do questi soldi, tu mi lasci il posto di lavoro, devo assumere un'altra persona e devo pagare anche lui. Ecco come pagano questa gente, perché questa gente vede i soldi e basta, non vede il sacrificio del lavoratore, vede solo i loro interessi, vedono, ecco qual è il discorso qua. Infatti tirano l'acqua al loro mulino, è normale, capito? Ma una proposta anche a me è una cosa del genere. Io calcolo, infatti, ho detto, ma stiamo scherzando. Cioè io facevo 6 ore e 40 di lavoro, è vero, lavoravo sono la mattina, entravo alle 7, uscivo alle 2, ho capito. Però il mio stipendio era un buon stipendio. Quando tu mi dai 800 euro di NASPI e poi mi offri 5.000 euro per due anni, che cosa mi stai dando? Mi stai dando una caramella alla menta? Ma stai scherzando? Prova a darmene 20, a ver se ti dico di sì. Mi dai 20.000 euro, io me ne sto andando. E con quei 20.000 euro io mi copro dalle 800 fino al mio stipendio. Ok, tutti i mesi. Prendo da lì e faccio il mio stipendietto per due anni. E me ne avanza a burro. Ma no, 4.000 euro. Ma di cosa ci va a vedere? Ma questi sono scemi. Gianni, l'ho vista, ma l'avevi già mandata. E ti posso dire che dalla foto precedente a questa che mi hai mandato, si è aperto ancora di più il piede. Si è aperto ancora di più. Sei meglio di me, no? Tu mi insegni che il diabetico è così, perché anche mio fratello ci ha messo molto, ma molto tempo per la ferita dell'incidente, capito? Purtroppo per i diabetici è così, basta un taglio, a me mi si chiude in 10 giorni, 15 giorni, tu che hai il diabete hai bisogno di più tempo, perché purtroppo quella è la malattia, non c'è niente da fare. Ma se lui ha detto così già che doveva rimanere aperto per drenare, loro sanno quello che devono fare, perciò cosa noi sì, a volte diciamo, ma perché non fa così? No, deve essere così, punto e basta. No, ho visto le due foto, il contemporaneo, cioè quella che mi avevi mandato prima, che ce l'ho sempre, e questa che mi ha mandato adesso, è molto più aperto, quindi... Cioè non è una cosa che si chiude ad oggi e domani, sono passati 4 anni, è 4 anni che tu non metti gli piedi, proprio nello senso della parola, e quindi alla fine loro questo devono capire, che hai bisogno di una mano per far sì che questa soluzione o questo problema smetta, cioè finisca, non puoi stare una vita così zoppa zoppa, non va bene, nel modo più assoluto. Proprio sui lati del dito grande del piede, capito? Del dito grande del piede, proprio dall'appoggio di quella merda di scarpe antifortunistiche che c'erano stappiate a ferro, addirittura quelle che mi avevate aziendali le avevo regalate a un amico carrozziere, eh? E io me le sono comprate di quelle buone, di marca, molto più morbide dall'osa, la stessa cosa, non c'era niente da fare, scartati fortunisti che rovinano i piedi, o diventate belli biatti, mi fate animare sempre i talloni, le dita, qua, lascia fredda, purtroppo è così, no? Non c'è niente da fare. Vai, Matteo, giù. Purtroppo è così, però io. Sì, ma certo, i piedi bisogna tenere sempre belli sani, perché sostengono tutto il peso della persona e a lungo andare, se ci sono problemi ai piedi è una sofferenza continua. Ma io mi ricordo, io da ragazzo, quando ancora gareggiavo, avevo avuto l'unghia incarnita, si può immaginare. Beh, ti dirò che io l'unghia non me lo sono mai fatta chiudere, mai. E me la sono guarita io, perché mi cresceva l'unghia, mi entrava dentro la carne, mi entrava, no? E dunque nell'angolo del dito mi sanguinava continuamente, mi sanguinava il dito grande del piede, no? E sono stato più di un anno con l'unghia così. E cosa avevo adottato? Il sistema era questo. Avevo preso le scarpe da podista, avevo preso un numero più grande e nella punta li imbottivo tutti a cotone. Beh, siccome avevo paura di farmi togliere l'unghia, avevo paura e non me lo sono mai fatto toccare. E così mi è guarito. Io con le forbicine, di quelle sottili, prendevo sistematicamente ogni pochi giorni, mi tagliavo all'interno dove entrava l'unghia nella carne, aprivo la carne, aprivo e tagliavo l'unghia, in modo da non continuare la ferita. E così è stato, perché prima mi usciva sempre una specie di infezione, avevo questa, era un dolore maledetto, e camminando non era possibile, eppure gareggiavo lo stesso, sono stato più di un anno con l'unghia così. Alla fine sono riuscito a guarirmelo da solo, tagliandomi sempre l'unghia senza farla crescere più di tanto nell'angolo. Ecco com'è andata. Vai, Gianni. Io ti dico una cosa, che il piede così non ne avevo mai avuto. Allora c'è la luce che c'è il calo sopra, come ha detto Flavio. Un'unghia che si è fatta nera e si è incarnita, come ha detto tu. Ho provato, praticamente tu per tagliare l'unghia non trovi la parte di davanti. Non trovi mai la parte di davanti perché sicuramente è fissata nella carne. Però siccome io non ho spinta i piedi, se io vado a fare la cosa che faccio tu, magari mi taglio un pezzo di carne, non me ne rendo conto, capito, qui a guarire e via, e lì c'è il problema. Attenzione, canale Vici, si ascolti, cambio. Avanti, con la buonasera. Ciao Gianni, buonasera. Mi dai un controllo radio e segnale per cortesia, che sto provando un nuovo apparato. E poi non so neanche chi c'è in ruota, è Salottone 73. Segnale 93 da Radio 5. Va benissimo, Marco, tu sì. Perché la radio è un po' camuffata, ma sempre... No, Gianni, Tino. Hola, buonasera, un nuovo apparato, dai, in prova, appena acceso, quindi non so neanche se sta andando bene o meno. Come fredda, sì, tranquillo, va benissimo. E che apparato è questo? È un Sears SSB, dai. Ah, ho capito, sì, quindi vecchia era, ma che cos'è? E quelle sette alle base, comunque sono in compagnia di Claudio e di Giulio Rolo. Salottoni, poi mi darete conferma anche voi, perché non so neanche se sta andando bene, perché ho appena attaccato. Va bene, Claudio, riprendi, ciao, buonasera. Ciao, sembra lo stesso segnale di volta, quindi suppongo che sia lì, il SEART, una bella radio vintage, segnale da me 5-9-10. Segnale di volte praticamente. Avanti Giulio. Ok, ciao Tito. 9-12 qua, la radio è buona, buonissima. No, negativo, sono a casa, qua. Sono contento, vuol dire che sta andando. Non so neanche quanti volte dà, Guarda, dal tuo segnale a questo penso che siano poco più di 5 volte sicuramente. Cosa c'ha anche le pepe questo tipo? Che questa devo fare un ricchio alla tua modulazione, in quanto sei molto eccolato, lecca. Guarda, e diciamo che è diversa colonnina, quindi diversa tonalità di ascolto. Mi stavi dicendo? Ho detto che ha anche la FM. No, questa AM, LSB e USB. No, non ne hanno, sono radio vintage. E la carta in legno? Sì, di, no, no, di legno, di colazza legno. Ah, è capito legno, dai. Lascio parlare, a me piacciono quelle stazioni di base, mi piacciono molto quelle di una volta, non tutte, perché ci sono anche quelle che non mi piacciono, per dire Royce mi piace tantissimo. Quello è uguale a Royce, simile a Royce, con la cassa così in legno, il legno fattificato praticamente, è simile a Royce già al CER. Sì, ma già l'ho visto qualche volta, non è che ce l'ho presente adesso, però l'ho visto, da parte l'ho visto parecchio. Sì, in Valt c'è tutta la serie del Seat, sicuramente gli ha dato Valt. È una bella radio, una bella radio, simile al Royce, così, cassonato, certificato in legno, una cosa del genere. Sì, Tino, è un SSB da un po' più di Valt, in AM, poco più di 5. Capo, no, vabbè, le stiamo provando, giusto per farle andare, farle scaldare un pochino. Addirittura quando modulo l'intensità del LED, anziché diminuire, va a aumentare. Lancio il mic a Giulio. Ok, Tino. Sì, anch'io ne ho uno così, che è un finto legno, ma in realtà è una plastica che c'è sopra, dai. Io ho un cobra da base sempre. Cobra, se ricordo bene, 139, boh, qualcosa del genere. Comunque, e anche quello è senza la FM, solo AM, LSB, USB. Ebbè, sono radio con la concezione americana, capito? E dunque non in America l'FM non la usano, per cui costruivano, perlomeno prima, adesso non lo so, costruivano le apparecchiature solo AM, LSB e USB e basta, niente di più. Va bene, vabbè, comunque già va bene, dai, è una bella modulazione. Ma come potenza io penso che non ci arrivi nemmeno a 5 watt quello, probabilmente ne dà 3,5-4, non penso di più, perlomeno il mio è così. Io ho un Cobra, come ti stavo dicendo, sempre di quel vintage così, e non dà più di 3,5-4 watt. Va bene, dai, riprendi Gianni? Sì, va bene, li puoi aiutare, quando andavano tutti, guarda, quando attaccato il mio 300 watt. Va bene, dai. No, era giusto curiosità perché l'ho acceso, l'ho lasciato scaldare un pochino, sai, quando magari è un po' di tempo senza utilizzarla la radio, meglio far scaldare un pochino un po' di tutto all'interno, e ho provato a fare una chiamata. Va bene, dai, vado a farmi la doccia, che anche io sto rientrando al lavoro, quindi al limite se coincide è più tardi. Sì, ciao a te, una doccia buon tutto. Sì, c'è un LED rettangolare, che uno verde, uno rosso, uno per la ricezione, uno per la trasmissione. E quando parli si illumina, sì, l'ho avuto anch'io, a volte un paio di lavorati io, anche vabbè, abbiamo detto poco fa, e lui si li ha volato. Ok, dai, ciao, buona serata, buon tutto. Giulio, tu c'hai il Cobra, quello, per caso tra l'altro Franco, quello che sembra tipo console, che c'ha i comandi a scendere praticamente in piano. Sì, ho quel tipo lì, sì, vado barato Franco, io ce l'ho tanti anni, ce l'ho da tantissimo, ci sono due Smitter, ci sono, anzi tre, no due, ecco, me lo sto guardando, due Smitter rotondi, uno è per il microfono praticamente, e l'altro è per il segnale, e poi c'è la manopola dei canali che è rotonda, i numeri sono in cerchio solo, e poi ci sono sei potenziometri e tre leve che servono per mettere ANL, come si chiama, CB eccetera, per cui, ma io gli avevo fatto anche una modifica, poi gli avevo aggiunto una quartiera, gli avevo aggiunto con dei quarti supplementari e ci ho aggiunto anche un potenziometro supplementare e da 23 canali, perché questo è nato con 23 canali, no? Sono diventati 39 per l'esattezza, no 37 per l'esattezza, 37 canali. Magari se avessi messo un altro tipo di quarzo con qualche altra frequenza, probabilmente potevo raggiungere anche il canale 40. E questo mi fa da canale 1 fino a canale 37, e mentre invece è nato per 23 canali solamente. Va bene, avanti, riprende ancora qua. Non metto la quartiera interna, non è esterna. Ho fatto da una parte ho fatto un forellino per poter passare il perno di un potenziometro, perché a secondo, cioè ho ottenuto il canale in questo modo, ho ottenuto, ad esempio, se metto questo tasso, se tiro su una levetta, tiro su una leva e poi metto il canale 1, tanto per fare un esempio, adesso non me lo ricordo, infatti ho la lista, aspetta, mi ce l'ho da qua. La tengo sempre attaccata vicino alle manopole in modo da poter capire dove devo andare per trovare il canale. Allora, se io metto il potenziometro, lo metto sul canale 1, ottengo il canale 23, vabbè che esisteva già, però quello, poi ottengo il 24, il 25, il 26 e il 27. Se quel potenziometro lo metto sul canale 5, allora ottengo il 28, il 29, il 30, il 31 e il 32. Se lo metto sul canale 9 ottengo il 33, il 34, il 35, il 36 e il 37 come canali o già. Io ti ho chiesto se resta cosa, perché un periodo quando c'erano le baracchini di 23 canali ci metteva la quartiera esterna e poi ci cambiava di qua, però per i più canali, e ci faceva la cosa per manuale, diciamo, dai, invece che essere curita, ci toglieva il quarto sul centro di trasmissione, ci metteva proprio a dire il canale 23, ci mettevi 24, 25, tutto pure i quarti, cambiava il quarto, molti lo faceva. No, ma quello è diverso, perché sostituivi, aspetta, allora, siccome questo dava anche il canale 9, dava, allora io cosa ho fatto? Ho utilizzato la leva del canale 9, se metto la leva alta sul canale 1, ottengo su questi canali che ti ho detto 23, 24, 25, 26, 27. Se metto invece sulla bassa, sulla leva bassa, allora ottengo solo i soliti canali da 1 a 23 e basta, niente di più. Se invece con la leva alta, sempre del canale 9, non con quello, diciamo così, del soccorso, lo metto alta e poi sintonizzo il canale 5, sintonizzo quello normale, allora con questa leva alta ottengo il 28, 29, 30, 31, 32. Lo stesso discorso dicasi anche per il canale 9, se sintonizzo sul 9 ottengo 33, 34, 35, 36 e 37. Io mi sono fatto una lista di tutti i canali perché avevo provato già tanto tempo anche con persone eccetera, e ne avevo fatto una lista per poter avere la possibilità eventualmente di spostarmi sul canale che voglio, leggendo questa lista, e ce l'ho sempre sul frontalino, ce l'ho proprio così, sembra che pianoforte sembra, come tastiera o Gianni. Con la mano astrale, non sembra proprio barata. simile a quello che c'ha, però la dicitura dei canali è digitale, è rossa, Giulio, quella che io avevo dato a Franco, il Cobra. No, qui no, qui è tutto nero, qui è tutto nero, qua. Del rosso cosa c'è? Solamente parte negli smitter, ma cosa di poco conto, diciamo. Niente di essere, sto guardando, ma niente di particolare. Mi sto anche leggendo, sì, 139, lo sto leggendo adesso, Cobra 139. No, quello che ho detto a Franco non era 139, era un altro modello, perché ce ne sono due o tre modelli di micelli a Walter, tutti quelli con la serie di tipo da fiera, e c'è la dicitura digitale, il canale digitale, come il DAC, no? È digitale la scrittura, tutte le letture sono digitali, tranne gli strumenti sono analogici, il DAC è così, così era il Cobra, capito? Beh, già Royce non ha niente a che fare, si chiama Royce perché Royce non c'entra a fare gli strumenti, la cassa, cioè quello che mi avevi fatto prendere tu a me, ti ricordi all'asta, quello è il Royce, quello lì o quel modello lì, Walter non ce l'aveva, c'erano gli altri due e l'avevo dato a lui, faceva lui. Ma poi come avrebbe scelto un altro scooter? Mi ricordo, no, la guarda Walter, non avevo dato un'altra radio. No, Marco gli avevo dato il Zodiac, il 23 canali base, quello in ferro con martellato celeste originale, quello gli avevo dato. Con gli altri, la verità, li ho dati tutti a Gianni KP2, a Gianni e a Roberto li ho rivisti, ne avevo un mare già, un mare, non c'avevo più posto. Questo riposto, sai quanto costano i piedi che hai messo tu nella base che ho tolto, perché l'ho già fatta in campagna, le devo mettere, perché quella di piedi ne aveva due solo e poi c'aveva la piazza perché era agganciata all'altra base che dove sono adesso. Allora sai quanto costano i piedi che poi dello stesso colore non ci sono, sono di diverso colore, 35 euro l'uno adesso. Dicendo, tra l'altro questo funziona anche a 220 e a 230, va. Funziona anche direttamente senza l'alimentatore, funziona sia in un modo che nell'altro, va. A 12 oppure o meglio a 13 e 8 oppure a 230, come oggi la tensione, oggi è 230, non è più 220 la tensione che abbiamo noi in Italia, è così anche la forza motrice, prima era 380, adesso è 400 volt, per cui è cambiato anche quello. Tu mi dirai, ma non si brucia? No, non si brucia perché tutte le apparecchiature hanno sempre avuto una tolleranza in più, anche le lampadine, tutte sono, quando le costruiscono hanno sempre una tolleranza in più, tutte le apparecchiature, qualsiasi elettrodomestico, eccetera. È per quello che hanno potuto aumentare la tensione, tenendoci noi sempre le stesse apparecchiature, gli stessi utilizzatori, eccetera. Avanti Gianni. Anche se la cosa è poco, non la saprei più. Certo, mi sono messo in una pressione. Ma non c'è stata un giri, mi è mancata ormai 3 o 4 volte. Ma è mancata anche la scala sopra. C'è 4 volte è mancata, non si prendeva. Ma poi sai cosa succede? Quando manca la luce, mi si accende il televisore da solo. Vabbè, quello è un altro discorso, magari può essere che tu hai delle lampadine a LED, siano quelle che magari fanno un rientro di radiofrequenza e ti fa partire il televisore. Io lo stesso, sempre quello, io ho il baracchino qua sopra c'è il televisore, su questo tavolino, se poco a poco ad esempio uso il K e aumento appena appena la tensione, mi si accende il televisore, se è acceso mi si può anche spegnere, per cui vedi bene, sono dei rientri quelli, sai, l'elettronica è oggi è incredibile, ti fa girare la testa, ti fa girare, per carità. Sì, non lo sapete, detto, ma non da adesso, la tensione è aumentata già da qualche anno, Gianni. Tu prendi il test, lì, tu dici la curiosità, metti in corrente alternata e infila il puntale della presa e tu ti rendi conto che la tensione adesso è 230, sì, può essere 228, 225 anche, perché non è detto che sia sempre, però il nominale è 230 volt. In Italia la tensione è 230 volt e per la forza motrice 400 volt. È così, ho già. Tu il 440 Giulio come tensione? Come tensione? A 13,8, io prima lo stavo usando per un certo periodo, l'ho usato anche a 12,5, però se metto l'FM non ce la fa, mi si abbassa il costo, mi si abbassa molto la luce dello smitter. Funziona lo stesso, poi mi si abbassa, mi dà fastidio vedere la luce che si abbassa, invece 13,8 rimane normalissimo quando uso l'FM ad esempio, o quando vado in banda laterale, la stessa cosa. Sì, 13,8, neanche io lo so così. 4,30 ce l'ho addirittura a 14, perché c'è una 4,30 la radio allucinante. A 13,8 va bene lo stesso, però a 14 lavora meglio. Lavora meglio, non scalda niente, nulla, anche vabbè, la ventola ce l'ha dietro, rotonda, 4,30 c'è un bel raffreddamento rispetto a 4,40 che c'è il dissipatore, la ventola è messa in una maniera diversa, quella ce l'ha proprio dietro, attaccata dietro, la ventolina abbastanza grande, fatto molto bene il 4,30, infatti, non per altro, ma 4,30, 4,40 si romagna, come dice il trasmettitore, c'è proprio il 4,30 a fianco come provo io ogni tanto, ti metti in HF e senti la differenza del ricevitore, proprio bello schietto, molto più meccanico, molto più selettivo il 4,30, il 4,40 infatti, e non era giù dentro Balissio, va bene. Ok, che ora si è fatta? Già le 8 meno 25 passate, ci picchi, anche oggi è andata. Sì, è vero, meno 20 qua, la sveglia qua, meno 20 proprio già scattato anche. Sì, lo so, no, ma sai cos'è, lo tenevo più basso, più che altro per potenza, più che altro per le lampadine, dello smitter, queste cose qua, non per altro. Sinceramente, se poi uso un FM o una banda laterale mi si abbassa molto la luce nello smittere e allora l'ho rimesso a 13,8. Però diciamo che dovrebbe andare bene per quanto riguarda la parte finale, cioè tutto lo stadio finale va bene, perché i transistor dovrebbero reggere fino a 18 volt, per cui anche 14 non ci sono problemi. Io so che i transistor resistono anche a 18 volt finale, no? Non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda la tensione, a meno che non superi quella tensione lì. Però il problema può essere nelle lampadine, può essere anche nel frequenzile, ecco, il problema è quello, perché non so quale resistenza possono avere. Però per quanto riguarda lo stadio finale, cioè i finali, tranquillo, possono resistere anche a 18 volt, ma non deve andare oltre, non si deve andare mai oltre, perché diventa pericolosissimo, capito? Hai detto bene, il problema è la lampadina dello smitter che non regge oltre quel voltaggio, tanto è vero che a me quando aveva, mi aveva, perché per dare l'ultimo decennio, scalino, inclinarlo, c'è un lavoraccio. Massimiliano Archimede me l'aveva fatta e mi aveva tolto la lampadinetta dello smitter, proprio quelle che si bruciano normalmente, che poi una rottura di scatole cambiale non è come il 140, il C80, il 430 anche ce l'ha abbastanza visibile, mentre quella lì è dietro, quindi devi abbassare tutto il frontalino, è un casino, devi fare un lavoraccio. E allora mi aveva messo il LED bianco, che praticamente è dello stesso colore del frequenzimetro, tutto un colore la mia, bello visivo, non mi si è mai bruciato, capito? Quello è un lavoro che bisogna fare al 440, perché se ti si brucia la parte dello smitter c'è un lavoraccio da fare, a differenza del 140 e 70, che apri il coperchio, la sfili, c'è il buchettino, no? La sfili e la cambi. Questa è il 440, è un casino. E quindi mi aveva messo il LED con la resistenza e non mi si è mai bruciata. Ed è praticamente bianca, però è uguale, precisa identica alla dicitura dello smitter, mentre tu invece c'hai la luce di un colore e il frequentimetro di un altro, no? Questo è tutto lo stesso colore, uguale, precisa identica. Ok, sì, certo, infatti adesso in questo momento l'ho abbassata a 12,5, come vedi trasmetto ugualmente bene, però magari se metto la FM, scusa un attimo che comodo, vedo bene subito, lo vedo. Sì, quando metti abbassa la tensione si abbassa un po' di più la luce dello smitter, dunque no, però funziona lo stesso, cioè per questa frequenza tranquillamente funziona lo stesso, non c'è problema. A 12,5 adesso. Sì, ma non lo farai lavorare così basso, se metti la 13,8, la tensione sua è quella, 13,5 e 13,8, lo ripeto, se lo fai lavorare a 14 non succede niente, però il problema è la tensione che dai alla luce dello smitter, ti si può bruciare, quindi tienilo a 13,8, 13,5 va benissimo. Beh, in FM abbassi la potenza, fortunatamente regolabile anche in banda laterale, quindi già va bene. Oia. Io 10 watt e picchi modulazione a 50, a 40, ora, è una bella, quando funzionano bene queste radio funzionano bene, quando funzionano male, e ti dici non agi più gana, si vemmani, adios. Sì, e beh certo, quello sì. L'unico vantaggio, cioè quando tu abbassi la tensione, ne guadagni in amperaggio, perché più bassa è la tensione e più amperaggio risulta, più aumenti la tensione e meno amperaggio risulta. Ecco qual è il vantaggio, però purtroppo le regole sono regole, devi portarla a quella tensione e con quell'amperaggio, perché se no non funzionano queste apparecchiature, ci mancherebbe altro. Sono in assorbimento o in ricezione, mi sembra che assorba roba di 5 ampere, sono in ricezione. Quando poi trasmetti te ne prende 17-18 ampere, mi sembra, una cosa del genere. Adesso io ce l'ho in basso, non lo posso vedere, non lo sto guardando, però grosso modo è così, eh? Sì, e anch'io ce l'ho in basso, è sotto il piano della base, del rimettatore, ne ho tre, proprio tre lì, però guardando così da lontano, sì, 15 ampere sono 15-16 ampere a 10 watt, in FM ci rimane a 20, se lo metti a 100 watt, è così. Vabbè, ripeto, sono radio che hanno 6 anni, però io non mi sono mai staccato, io ce li ho tutte e due, 30 e 40, vanno benissimo, poi ti ripeto, la mia adesso è tutta rifatta nuovo, perché mi sono fatto sostituire anche con relè di commutazione che ogni tanto si inchiodava, l'avevo aperto sotto, ho fatto un colpettino con il cacciavite induttivo e si riprendeva, e quindi l'aveva sostituito. tranquilla che quello lì era già revisionata l'anno scorso. Vabbè, la tua pure revisionata, diciamo, quest'anno, perché è revisionata anche tu a poco. Perciò adesso sino a quando durano, le teniamo, poi quando non durano più, vuol dire la facciamo nuovamente riparare, tanto il problema è sempre quello, per il resto sono delle macchine da guerra. Sì, beh certo, no, a me in verità piace, questa radio mi piace, io quanto tempo ce l'avrò adesso? 4-5 anni più o meno, adesso io non mi ricordo di preciso, ma all'incirca è così. E devo dire che sono abbastanza contento, dai, no? Funzionano egregiamente, poi per come la uso io, guarda, non c'è un graffio, non c'è niente, è perfetta in tutti i sensi. Non la sfrutto con i vatti, non la tratto male, è sempre coperta per la polvere eccetera eccetera. L'unica cosa che non copro è il frontalino, lì ogni tanto ci passo il pennello in modo che negli angoli eccetera, nei potenziometri eccetera, posso pulirlo bene sistematicamente una volta alla settimana, ci passo il pennello alle volte, però mi si gira anche il potenziometro senza accorgere, ma quando me ne accorgo lo rimetto sempre a uno, e come sto sempre usando, dai, sto usando a uno e dunque non mi avete detto più niente che non strappa e si sente bene, penso che sia abbastanza forte come modulazione, per cui parlo sempre normalmente senza gridare, senza azzuffarmi con me stesso, per cui non credo che, poi se non mi dice niente significa che sta bene, che va bene, non c'è bisogno di chiedere tutte le volte. Avanti ancora qua. Che cosa vi chiede? Io non ho mai chiesto, non mi è regolata così e non devo toccare assolutamente niente. Quella era nuova, quella quando io l'ho data, Franco era nuovissima. Era nuovissima, nuova, quindi se lui non l'ha graffiata era nuova la radio, come questa che ho io, tutte erano nuove, una un pochino meno, forse quella che ha volato Roberto, adesso non mi ricordo, ma quella forse era una delle prime che avevo avuto, ma poi la seconda e la terza che avevo comprato da gente che non lo usava mai, capito? Quindi assolutamente. Si è tenuta bene, le radio vanno tenute bene, io quelle che ho, nonostante siano adattate, sono nuove, lo sai, 4.30 che ho io è nuovissimo, eppure l'avevo preso a Valtra, adesso non mi ricordo quanti anni ce l'ho, l'unico coso che lavoro che è stato fatto, sempre da Fabrizio, mi aveva cambiato il frequenzimetro, mi aveva sistemato un po' alcune cosette, però la radio è sempre perfetta, funzionante. Quindi basta tenerle bene, funzionano, se poi le abbandoni è chiaro che non va più. Ok, moglie, sono le, lascialo stare, mia figlia ha giocato con Filippo, si può, boh. Ma perché non te le stringi tu? Arrivi, capito? Se sai cosa offendi, cioè stringendo i testicoli al cane, domani rimane fermo. Perché cosa ti credi? Che al cane non le piace giocarlo e a voglia, che affitta, altro che lasciano fare che si diverte almeno quando l'animale è così mansueto come quello, e problemi non ce ne sono e non te ne danno, per cui va bene. No, strano che ancora non l'hai portato, o l'ha portato già tua figlia, la solita passeggiatina serale. Sì, appunto, come stavo dicendo, qui è nuovissimo, grazie, non ce ne sono, e la radio è stata revisionata da poco, come vedi, quando fai che cambi frequenza sui 20, sui 30, eccetera, c'è il solito scatto che fa tac, quando gli potenziometro che arrivi al massimo di quella frequenza, e dunque, quando fa quello scatto vuol dire che è perfetta in tutte le frequenze, e devo dire che è perfetta in tutte le frequenze. Poi non è che l'ho sfruttata così tanto, io usavo principalmente sempre il baracchino, lo usavo, e per cui questa riposava, però l'accendevo, questa sì, perché quando usavo il baracchino anche questa era accesa, senza antenna però era accesa, adesso adesso invece mi sto prendendo l'abitudine di usarla un po', così almeno togliamo anche la scusa che non, che la trascuro, e proprio magari si era bloccata anche per quel motivo lì, perché io non la usavo abbastanza. Sì, ma infatti, visto che non lo usi tu a livello amatoriale, ogni tanto, se esci fuori dalle memorie, per esempio, col down up lo fai camminare, le fai scattare tutte le avanti e indietro per un paio di volte, perché magari qualcuno si può anche incollare, come è successo a me, perché io vendo la KF amatoriale, questo lo uso diciamo come baracchino, quindi è memorizzato dal canale 1, visto che c'è 100 memorie, al canale 80. No, sto sempre sulle memorie, non esco mai dalle memorie, non vado mai nelle bande amatoriali per farlo, per ascoltare, ascolto sempre con la KF amatoriale perché c'è l'antenna sua, capito? Però ogni tanto io esco dalle memorie, scroll down e up, le faccio scattare tutte le lei, quindi tutte le bande, capito? 10, 15, 20, 40, 80, lo faccio andare, in modo che i relay si sentano aprire e chiudere, quello è un lavoro che bisogna fare, soprattutto quando non lo usi come deve essere usato, ecco, come lo stiamo usando noi, così faccio anche al 403, è meglio farli scattare il relay ogni tanto, farli lavorare. Va bene, Giulio, io vado, sono meno 10, le 8 meno 10, dai. Ho visto che sei già alzato, Filippo è in giro, quindi sta cercando, non vuole uscire. Adesso mi preparo, esco, intanto sono già le 8, quindi fra un po' si cena di nuovo. Grazie alle due chiacchiere, saluto tutti quelli che sono in ascolto e ci sentiamo domani, anche a Gianni, che appunto era al telefono. Ti ripasso il cambio, ascolto il finale e poi chiudo, Giulio, a te. Ok, ciao qua, grazie anche a te per la chiacchierata, dai, a domani, sicuramente coinciderà, tanto si sa, siamo su questo canale, se per caso sono giù, intanto io già metto lo squelch e aumento il volume, per cui anche se sono nel piano basso, a meno che non sono in tavernetta, ma se sono in salone, già sento, non ci sono problemi, già metto il volume abbastanza alto, però squelciato, perché sennò questo rumore può anche dar fastidio, invece quando è squelciato al limite naturalmente non chiuso completamente, ci mancherebbe, e dunque già sento, se c'è qualche chiamata già sento, come la stasera, dai, che ho sentito a Gianni e dunque però ero già sul piano qua, per cui ci siamo incontrati. Ciao di nuovo qua, alla prossima, buona passeggiata col cane, dai, ciao. Ciao Giulio, infatti, ma anche io faccio così, per non sentire questo fruscio, uso lo squelch a metà e i segnali oltre il 9 te lo apre tranquillamente, quindi non succede niente. Ciao, a domani, grazie a te, buona cena, buon tutto, saluti a casa, ciao. Ok, ciao, avevi cambiato il tutto, ciao.